La scintilla della rivoluzione l'abbiamo lanciata noi checche, travestiti e puttane. Con questa citazione di Silvia Rivera voglio aprire la puntata di Tracce di Cinema di oggi, e dopo queste parole che nella loro semplicità richiamano un sentimento fortemente rivoluzionario e che mi hanno emozionato mentre le leggevo, e ora anche di più che le ho pronunciate di fronte a questi microfoni, saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 e tutti i compagni e le compagne che in questo momento sono private della loro libertà. Oggi è giovedì e come ogni giovedì dalle 3 alle 4 del pomeriggio a Tracce di Cinema si parla di cinema, di colonne sonore, di argomenti più o meno lievi, di film nuovi e vecchi con le loro musiche, e di solito chi si mette all'ascolto in questo orario sa che con leggerezza va in onda questa trasmissione, che è un po' generica, forse qualche volta imprecisa rispetto all'accuratezza delle trasmissioni che rendono speciale questa radio speciale. Lo dico perché il film, gli argomenti e il tema della pellicola che andremo ad esplorare musicalmente e cinematograficamente oggi hanno evocato in me un senso di grande responsabilità, e per questo ho pensato che avessero bisogno di essere affrontate con la cura che si riserva a ciò a cui si tiene. Per questo, oltre al nostro ospite critico cinematografico che sentiremo fra un po', ci sarà anche con noi un'altra ospite che darà un contributo fondamentale, indispensabile e secondo me necessario per approfondire alcuni degli argomenti e dei protagonisti del film scelto oggi. Dopo questa premessa posso dirvi finalmente il titolo del film, è Stonewall, e se avrete la pazienza di ascoltare capirete che non è un film qualsiasi, e non dico questo pensando alla bellezza del film o alla piacevolezza della sua colonna sonora, che è molto piacevole, ma perché lo spunto da cui parte il regista Roland Emmerich è davvero qualcosa di storicamente significativo per tutti noi. Questo film infatti racconta la storia di persone che hanno combattuto per rivendicare il diritto a essere se stesse e liberamente omosessuali, segnando un momento, un passaggio che resteranno indelebili grazie a una rivolta, la rivolta di Stonewall del 1969. Questo è il titolo del film di oggi e fra poco ne parleremo perché c'è davvero tanto da dire, ma più che sul film, che è un po' una farsa ed è stato anche fortemente criticato e poi vi diremo anche perché, c'è tanto da dire sui suoi protagonisti, non quelli della finzione cinematografica, intendiamoci, ma i reali interpreti e della rivolta del 69. Spero proprio di riuscire con Federico e Davide e con i nostri ospiti a parlarne con la cura che questo evento e i suoi protagonisti meritano, ma partiamo subito con la musica perché è davvero molto bella. E loro erano Della Veres con il brano I Need a Guy. E questa colonna sonora del film Stonewall è veramente eccezionale. Passa dagli anni 60 agli anni 70, dal blues al funk, soul. Però sono tutti, quasi tutti gruppi sconosciuti, o perlomeno di cui non si riesce a trovare molto su internet. Ad esempio, questo è Loveres, giusto che sono del New Jersey e che erano quattro ragazze, perché poi altre informazioni non si trovano. E quindi si può dire che è musica molto ricercata, e per questo motivo, e anche per dare più spazio a altre argomentazioni, vi racconterò un po' meno del solito dei vari brani. E questo film è costato 2 anni di lavoro al regista Emmerich, quasi 15 milioni di dollari, non proprio poco per un film senza star, senza effetti speciali. Stonewall di Emmerich è regista noto soprattutto per i blockbuster fantascientifici, ricostruisce in modo decisamente discutibile l'atto di ribellione omosessuale che segnò l'America nel 1969. Il film, che è stato presentato al Festival di Toronto nel 2015, è arrivato nelle sale italiane dopo un anno e non ha avuto un grande successo, perché è stato smontato quasi subito e ha diviso la critica e soprattutto il movimento LGBT. Ma ne parleremo in modo più accurato dopo. Vi accenno le ultime due notizie, insomma, a proposito della critica che il movimento LGBT ha fatto a questo film. È stata soprattutto perché, invece di raccontare con realismo la condizione degli omosessuali, Emmerich ha messo in risalto più che altro la storia del dramma personale del protagonista, lasciando che le dinamiche sociali e di lotta per l'emancipazione facessero da sfondo appunto alle vicende personali del beniamino del film, e così facendo non ha fatto altro che togliere centralità all'evento storico di Stonewall, mettendo anche in secondo piano proprio i veri protagonisti di Stonewall, di cui adesso fra poco vi parleremo dopo il prossimo pezzo. Child, drive me wild, you know you can't win. I'm gonna love you come rain or shine. The sun is shining everywhere. You should be happy that you are mine. Little child, e questo era il rock psichedelico degli MC2, un gruppo USA degli anni 60. E la rivolta di Stonewall, che è avvenuta tra il 27 e il 28 giugno del 1969 a New York, ha avuto luogo proprio grazie a una persona molto importante nel movimento LGBT, Silvia Rivera, che diede proprio vita, che diede proprio le ragioni di questo, dell'inizio di questa rivolta. E al telefono abbiamo un ospite che la radio conosce, una compagna nota a questi microfoni e a questo quartiere. Grazie Porpora, Marcassano, sei qua con noi, grazie mille Porpora per averci dato un po' del tuo tempo. So che sei al MIT a Bologna, sei il presidente del MIT, che adesso si sta svolgendo in questi giorni a Bologna. Benvenuta. Con te volevo parlare un po' di Silvia Rivera, che insomma nel film Stonewall viene soltanto citata nei titoli di coda, e mi sembra insomma un'offesa sia alla persona che alla alla storia, ecco. Noi ci lasciano sempre in coda, come si può dire. No, visto che siete a Onda Rossa, e Onda Rossa per me insomma è un pezzo importante, intanto vorrei ricordare che Onda Rossa è stata una delle poche realtà che ha coinvolto Silvia Rivera quando è venuta in Italia nel 2000. Infatti c'è un video con una registrazione molto molto interessante, che si trovano anche su YouTube, dell'intervista a Silvia Rivera proprio a Radio Onda Rossa. Quindi questo ci tengo a ricordarlo, a sottolinearlo, perché sono documenti importanti e preziosi. E chi era Silvia Rivera? Silvia Rivera è stata, diciamo, la persona e poi il personaggio è diventato, che ha lanciato la bottiglia ai poliziotti, innescando la rivolta, meglio conosciuta come la rivolta di Stonewall. La prima volta che persone trans, travestite, gay, lesbiche si ribellavano e fecero sì che nulla fosse come prima. Quindi noi ogni anno quella rivolta la festeggiamo come Pride, c'è chi lo definisce Gay Pride, io lo chiamo Pride, che è la festa dell'orgoglio, ecco. Nasce da quell'atto di ribellione e di insubordinazione. Silvia Rivera, insieme a un'altra grossa e importante attivista morta anch'essa, che si chiama Marsha P. Johnson. Anche lei citata soltanto nei titoli di coda del film. Sì, ma infatti, come dire, il film di cui si parla, che io non ho visto ancora e non so neanche se lo vedrò, è una, diciamo, rilettura dei fatti di Stonewall in chiave borghese, bianca, occidentale. Sì, infatti Marsha Johnson è interpretata da un maschio. Ma lo immagino. Guarda, io ti dico questo, che quando Silvia Rivera venne in Italia nel 2000, e anche ad Onda Rossa, infatti se si va a recuperare la registrazione, come dire, c'è, lei già all'epoca denunciava un montaggio sui fatti storici, già con la prima versione del film, sì, quella di Finch, che come dire, tutto sommato raccontava i fatti, però come dire, con altri personaggi, come dire, eliminati alcuni, messi altri, quindi il montaggio. Qui c'è un ulteriore montaggio in chiave molto molto, come dire, edulcorata, sdolcinata, come dire, molto più commerciabile e passabile. Cioè le persone che hanno innescato la rivolta erano persone che non avevano niente da perdere, erano le cosiddette brutte, sporche e cattive, che in quel caso erano transessuali, travestite, prostitute, cioè proprio la peggio gente di New York, no? E che aveva una vita durissima ai tempi, no? Che avevano una Porpora. Vita durissima all'epoca, ma anche oggi, non è che poi dici, no, sai, parliamo di chissà cosa. Però Beh, si veniva arrestati se si girava nelle strade travestiti nel 1969, sì, vedere, in piena rivoluzione studentesca, le pantere. Non conformi al testo di nascita che si era arrestati, ma quello, questo era vero anche in Italia, cioè non era solo in America, era anche in Italia, e c'è tuttora l'articolo 85 per mascheramento, travestimento. In quell'epoca veniva dato a tutte e a tutti, quindi cioè, non so se è chiaro questo, se si capiscono anche i fatti. E queste persone, quindi all'ennesima retata della polizia risposero, perché tanto come dire, loro non c'erano niente da perdere. Parallelamente un mondo gay molto più istituzionalizzato, diciamo molto più borghese, provava a farsi strada, però capito, in giacca e cravatta, provando con i metodi propri e con gli strumenti del sistema, perché sì, però non venivano recepiti, non venivano raccolti. Quindi in quel momento c'era bisogno di qualcosa di forte, e qualcosa di forte c'è stato, è successo, cioè la ribellione e l'insubordinazione. Questa è stata la cosa. Scusami, mi ha molto colpito la biografia di Silvia di Rivera, che ho letto con attenzione e anche commozione, perché in fondo è stata sempre emarginata fin da piccola per la sua scelta di vita, di sessualità diversa, ed è stata anche emarginata un po' all'interno del movimento all'epoca, insomma, ha avuto un epilogo tragico la sua vita, insomma, e mi ha molto colpito questo. Guarda, lei sin da piccola ha avuto impressi addosso i marchi dell'emarginazione. Prima, cioè, è nata in una famiglia povera, ispanica, come dire, di credo nel Bronx a New York, e lì, capito, dalla famiglia non era seguita, quindi fu messa fuori casa quando era ancora adolescente, quindi ha cominciato a prostituirsi per sopravvivere, e di lì, capito, si è inserita in quella schiera di emarginati delle metropoli americane, ma europee, come in tutto il mondo. Quando poi, nonostante lei divenne famosa per questo atto, che le fu riconosciuto a New York, le è stata dedicata una strada al Greenwich Village, cioè divenne famosa, ma lei, come dire, non ha mai poi cambiato, abbandonato il suo stile, il suo pensiero, la sua logica, è stata sempre molto molto radicale da questo punto di vista, riconoscendo tutti i limiti e i problemi del movimento gay, bianco e borghese, che prendeva le distanze da lei, la emarginava, perché lei comunque rappresentava quella parte appunto radicale del movimento, del mondo LGBT, che come dire, mal si confaceva alla parte istituzionale, insomma, tutto lì, cose, come dire, dinamiche che succedono anche in Italia, senza fare nomi e senza fare riferimento, ma come dire, il paese che vai, gente che trovi, si dice. Quindi la Silvia Rivera ha mantenuto sempre questa sua posizione, dicendo, affermando e ribadendo che senza diritti non c'è pace, senza diritti non c'è, e senza visibilità non c'è emancipazione, e ribadendo che lei era un'ispanica prostituta, transessuale, travestita e drag, sai, tutte categorie che la piccola media borghesia gaia insomma ne faceva tranquillamente a meno, ecco. Sì. Però intanto quelle persone avevano aperto la breccia, avevano aperto la strada, assolutamente, la quale poi sono passati tutti, ecco. Se non ci fosse stata quell'esplosione, se non ci fosse stato quell'atto, non lo so, quella bottiglia lanciata da lei, forse sarebbe accaduto tutto lo stesso, o forse no. Ma può darsi, sai, come dire, i tempi erano maturi, mm-hmm. era la fine degli anni 60, un po' in tutto il mondo, come dire, c'erano questi atti di ribellione, le rivolte diffuse, cioè penso alla Francia, penso all'Europa, penso all'Italia, e comunque può darsi che sarebbe successo, però un dato di fatto è che è successo proprio lì, è successo con delle persone brutte, sporche e cattive, lo sottolineo, perché non c'avevano nulla da perdere, e lì si è innescato evidentemente un bisogno che era diffuso, era grosso, che riguardava non solo New York ma tutto il mondo, ecco, perché le persone, gli omosessuali, le lesbiche, le persone transessuali erano non solo contro natura ma anche illegali, ecco, quindi si veniva arrestati, si veniva repressi, si veniva annullati. Un piccolo complimento a questo film glielo dobbiamo fare, almeno di aver rievocato alla memoria di forse qualcuno che non conosceva i fatti, insomma, un evento storicamente così importante che non riguarda soltanto la libertà di scelta degli omosessuali, insomma, ma riguarda la libertà di ognuno di noi, perché la libertà di uno equivale alla libertà di tutti. Non si può mica isolare, come dire, la libertà o i diritti di una sola persona, di una sola categoria rispetto a tutto il resto, insomma, sono pezzi importanti che fanno l'insieme, capito? Se la società non si può dire mica libera o avanzata se c'è un gruppo delle persone che sono escluse, certo. Assolutamente. Porpora, quindi, io ti ringrazio tantissimo, ricordo che in questi giorni si sta avendo luogo il MIT. Di cui tu no, sei... allora il MIT è l'associazione. Ah. E la prossima settimana comincerà il consiglio del TGU, Transgender Europe, che è questo grosso simposio che porterà a Bologna, ecco, 300 delegazioni trans provenienti da tutta Europa e da tutto il mondo. Quindi avremo, come dire, saremo un po' al centro dell'attenzione internazionale per quanto riguarda i temi, i dibattiti e le questioni che girano intorno al mondo trans, ecco. Bene, mi fa molto piacere ricordarlo, e ti ringrazio ancora tantissimo per averci concesso un pochino del tuo tempo, è stato importante per noi e per me soprattutto, e credo anche per gli ascoltatori, avere sentito le tue parole e il tuo ricordo di Silvia. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Grazie Porpora. Ciao. Ciao, ciao. Oh. I know a place. Queste erano i Staple Singers and I Will Take You There, un gruppo di familiare fondato dal padre e di fratelli e sorelle. Mavis in particolare canta, che ha avuto pure una carriera da solista. Un brano veramente bello. Io continuo a sostenere la mia critica al film citando le parole di Miss Major, transattivista, sex worker e una delle leader più importanti della comunità gay, sopravvissuta al carcere, ha partecipato anche lei a Motley di Stone, è una leggenda vivente, al contrario di Silvia Rivera che è morta, e ha aiutato innumerevoli donne trans di colore nel corso degli ultimi 40 anni. A proposito del film di Emmerich, che giustamente Federico mi ha corretto la pronuncia, c'è sempre da correggermi ed è giusto, è una vera delusione, dice: continuano a provarci, la prima cosa che ho pensato è stata con che coraggio ci provano ancora, alcuni anni fa hanno fatto un altro film su Stonewall, giuro di non aver visto nemmeno l'ombra di una persona di colore, o forse era l'ombra che scorreva sulla faccia di un bianco, è una vera assurdità, le ragazze di oggi non sono stupide, leggono la storia, sanno che le cose non sono andate così, non è possibile far finta di niente, non possono essere tutti bianchi, questo è paese, è fatto di colori diversi, di persone e pensieri e atteggiamenti e sentimenti diversi, invece cercano di uniformarli tutti per qualche motivo. E questo era il potente funk dei Fabulous Originals. It ain't fair, but it's fun. Non ho trovato molto su di loro, ma sono veramente potenti. Oh, questo brano ci introduce all'ospite di questa settimana, Maurizio Porro, il critico Maurizio Porro. Ci sei, Maurizio? Sì, ci sono, con voce altalenante, ma ci sono. Ben ritrovato su queste frequenze. Grazie. Allora, ci eravamo sentiti noi, tra l'altro, per la tua creatura di un portale che si occupa di cultura. Ti chiedo subito come sta andando questa avventura. L'avventura prosegue, si chiama Cultweek.com e come forse ti ricordi, tratta ogni giorno, cambiando argomento, tratta di cultura e spettacolo. Qui giovedì, oggi è proprio la giornata del cinema, domani del teatro, e abbiamo uno nostro zoccoletto duro, insomma. Senti, oggi per parlare con te di Stonewall di Roland Emmerich, un film che a me ha sorpreso quantomeno a partire proprio dalla regia, perché non me l'aspettavo proprio da un regista piuttosto muscolare, che non ho mai gradito, tra l'altro, come Roland Emmerich. No, neanche io me l'aspettavo. Senti... Però poi ho avuto qualche illuminazione, perché ho letto che lui ha fatto un coming out recentemente. Evidentemente, quando dirigeva i film catastrofici, era sotto mentite spoglie, diciamo. Senti, dal tuo punto di vista critico, cosa ci dici di questo film, Maurizio? Ma mi sembra, io mi aspettavo che tutto fosse concentrato sul tumulto finale, dato il regista. In realtà non è neanche così. Secondo me è un film un pochino vecchio stile. Va bene che si tratta del 69, però in genere bisognerebbe virgolettare le cose. Il ritratto dei vari personaggi, il folclorismo abbastanza esagitato che c'è, la mitizzazione di quella New York, eccetera eccetera, il patimento del giovane che viene da, mi sembra, al Kansas, e naturalmente vittima di un padre omofobo, sembra un po' te simpatia, insomma, quelle cose vecchio stile. Detto questo, naturalmente c'è un certo mestiere, e soprattutto comunque mai rifiutare un gesto di tolleranza e un racconto che arriva a essere quasi edificante alla fine, anche se poi da lì nascono e sono nati altri problemi. Quello che nel film è solo sussurrato, invece potrebbe essere un tema interessante e anche, a mio parere, inedito, è la longa manus della mafia che protegge tutti i locali peccaminosi, non solo gay ma anche etero, e che viene un po', questo tema viene un po' così annunciato nel film, ma poi repentinamente dimenticato, perché Emmerich gli interessa soprattutto, sì, il ritratto del protagonista e tutte le, insomma, come un'educazione sentimentale di un giovinetto di provincia che è così un prototipo reso anche abbastanza bene, ecco, non è che lasci un grande tratto, a mio parere. E poi ho visto che, come quasi tutti i film, è caduto in un vuoto pneumatico di interesse pauroso. Non a caso, forse. E sul discorso che facevi sulla mafia è interessante, perché poi è illuminante di come dove ci fosse del proibizionismo c'era la criminalità organizzata a fare interessi, poi alla fine. Certo, che poi penso che sia assolutamente vero, ripeto, non in genere il business del sesso, insomma, è chiaramente gestito come considerandolo come un peccato, come una trasgressione, comunque come qualcosa da cui viene un plusvalore, è chiaramente gestito da quei poteri lì, diciamo, dal malaffare. Però ripeto, nel film viene accennato un attimo e poi basta, e invece viene dato molto spazio, così, insomma, al romanzo sentimentale. Questo mi sembra un pochino vecchio, riduttivo, così come anche il ritratto del provinciale che arriva a New York, eccetera eccetera. Poi, per carità, magari sicuramente c'è del vero ancora oggi, perché basta vedere cosa dice Trump, eccetera. Però, insomma, da un film che tra l'altro racconta una cosa che è già stata raccontata da un altro film praticamente in fotocopia un po' di anni fa, forse era meglio puntare una strada nuova. Ecco. Sì. E poi il titolo è proprio Stonewall, quindi insomma è un titolo ammiccante per una storia invece che poi alla fine diventa un po' scontata, insomma un po' un peccato, ecco. Diventa un po' edificante, insomma, sì. Sì. Lo stereotipo dell'antistereotipo. Tra l'altro, però ci sono, allora, prima abbiamo parlato con Porpora Marcasciano della figura di Silvia Rivera, che è quella che ha dato vita poi a tutta la rivolta di Stonewall ed è passa un po' in marginalità rispetto al film. E un film che dicevi ha conosciuto un vuoto pneumatico, credo soprattutto per il fatto che comunque il movimento LGBT lo abbia fortemente criticato. Questo in buona sostanza perché è troppo bianco e anche troppo poco transessuale. Questo di fondo sono questi due le argomentazioni. Sì, io dubito che se anche il movimento LGBT avesse gridato al capolavoro la gente sarebbe andata. Intanto per noi Stonewall per gli italiani è un titolo che poteva essere appunto fantascienza di Emmerich, perché non richiama immediatamente al giugno 69 eccetera eccetera. E poi, come dicevo prima, è impressionante adesso, ampliando un pochino il discorso, il divario che c'è fra pochissimi film che funzionano e i tantissimi, ma non di incasso medio, di incasso nullo. Sì, e questo non è che sia una novità, però in questa stagione, anche rispetto a tanti titoli che si credeva potessero conquistare un pochino, è un dato spaventoso, insomma, dal punto di vista produttivo e anche sociologico, direi. Sì. E dopodiché, dopo queste critiche, comunque io alcune cose buone le trovo nel film, nel senso, comunque si vedono le angherie dei poliziotti quando vanno a fare le retate, si vede comunque il protagonista viene cacciato da casa sua e diventa il padre lo rifiuta completamente cioè, anche se passa del tempo la situazione non cambia, c'è questa comunità, questa trovata finale che sembra un po' Alberto Sordi in Vitelloni, che si ferma e poi va avanti. Sì. E poi comunque questa comunità LGBT newyorkese che erano figli di nessuno, vivevano nelle stanze d'albergo tutti insieme e non avevano un domani. C'è anche una parte del movimento che prova a presentarsi alla popolazione con metodi diversi, però quello che esce fuori nel film, e questo credo sia un messaggio importante, è che loro potevano fare tutte le marce che volevano, che venivano o ignorate o represse, e invece è stato poi quella miccia, quell'esplosione di Stonewall, certo, ha determinato tutto un passaggio poi successivo fondamentale. Questo certo. Gli va riconosciuto, secondo me. Questo è negli atti, diciamo, certo. Sì. Quindi, come dicevo prima, ben venga comunque un film che, però un film che non vede nessuno, purtroppo non ha neanche questo pregio di essere divulgativo rispetto a un evento che oggi è stato dimenticato e che forse pochi ancora conoscono. Vabbè, sul piano della realizzazione, chiaramente è un buon prodotto, gli attori sono bravi, lui è giustamente un santino, Jeremy Irvine, sì, mi sembra, e funziona. Però non so, mi ricordo l'altro film con Al Pacino, Cruising, che per certi versi era nello stesso ambito, cioè, aveva una forza, una carne, era Caravaggio, insomma. Sì, questo qui è un po' delle belle statuine, nonostante dentro ci dovrebbe essere più rabbia, questo voglio dire. Certo. Hanno parlato molto bene, Maurizio, invece del personaggio di Ramona, interpretato da Johnny Beauchamp, alla sua prima... Sì. Ma poi anche perché è tutto da scoprire, insomma, com'è questo attore? come lo vedi tu? No, lo vedo benissimo, che ci dici? Benissimo, perché qui naturalmente poi bisogna bisogna aspettare la chiamata di appello, perché questo, vabbè, è un ruolo, diciamo così, anche che ha delle facilitazioni emotive, però mi sembra molto bravo, anche perché insomma sono sempre quelle parti molto, molto facili e molto difficili nello stesso tempo. È facile andare e arrivare dritto al folklore, è difficile lavorarci dentro una psicologia. Senti Maurizio, in chiusura, non so se tu hai in generale un film di cui hai amato particolarmente la colonna sonora, o quest'anno c'è stato qualche titolo che se lo dico, ho amato molto la colonna sonora di Virzì, perché Senza fine mi piace tantissimo. Senza fin fine d'allora, del, fin dal del nuovo film, parli quello che è andato a Cannes? No. La pazza gioia? Pazza gioia? Parli del film di Virzì, La pazza gioia? Certo, sì, l'ho detto. Ti è piaciuto il film? Moltissimo. Ha avuto un grande successo a Cannes, io sono molto contenta per Virzì, mi piace tanto. Sì. Anche a me, moltissimo, è interpretato benissimo, tutte le cose che hanno già detto, ma che insomma converrebbe ripetere. L'unica sorpresa è che come mai non è andato in concorso, perché anch'io me lo sono chiesto, dei capolavori talmente, però ci sarà qualche ragione che non conosciamo. Comunque Senza fine si riconferma bellissimo, quindi ci consigli questa colonna sonora? Vi consiglio quella colonna sonora cantata da Vanoni. Benissimo, allora Maurizio, un abbraccio, a risentirci alla prossima. Grazie, d'accordo, buon lavoro, a presto. Ciao, grazie, arrivederci. Questa era la versione originale del noto brano Venus degli Shocking Blue, gruppo olandese degli anni 70, e la cantante Mariska Veres, che era appena subentrata al primo cantante che se n'è andato dopo un anno, ha cantato questo bel brano che è diventato un grande successo, una grande hit rifatta dalle Bananarama. Io preferisco questa versione, ma pure io, ma certo che sì. Senti, invece parliamo un po' della rivolta di Stonewall, che magari qualcuno ne sa poco. In quel periodo, nel 1969, la polizia di New York era fortemente fascista e omofoba, un po' come adesso, insomma è cambiato poco. Però parliamo del 1969, in cui la comunità gay era veramente messa alla gogna un po' dalla polizia e anche dalla società, che era altrettanto omofobica. Essere omosessuali o transessuali significava soltanto essere queer, cioè essere strani, malati, invertiti. E quindi era un continuo di retate e pestaggi. Sì, discriminati da tutti. Le leggi del 69 erano durissime, si finiva in galera per come si era vestiti e insomma tante altre repressioni. E nella notte tra il 27 e il 28 giugno del 69, dopo l'1:20, nello storico bar Stonewall, perché Stonewall è un bar che si trova ancora a Christopher Street, a New York, la polizia fece l'ennesima irruzione, e all'epoca i controlli erano organizzati al solo scopo di dar fastidio agli avventori. Venivano registrati i nomi della polizia, che venivano anche pubblicati sui giornali. Quella notte però 8 ufficiali, di cui solo uno in uniforme, avevano l'ordine di entrare per arrestare coloro che si trovavano, oltre che privi di documenti, anche perché erano vestiti con abiti del sesso opposto, furono violentissimi. Gli agenti picchiarono selvaggiamente gli ospiti dello Stonewall, che reagirono per la prima volta dopo centinaia e centinaia di controlli violenti che avevano subito, e dovettero rifugiarsi all'interno del bar. E poco dopo arrivarono, pensate, i rinforzi della Tactical Patrol Force, una squadra antisommossa originariamente addestrata per contrastare i dimostranti contro la guerra del Vietnam. Ma anche loro vennero respinte dai dimostranti. In questo caso erano tutti transessuali, dimostranti, tutti transessuali, pensate, vestiti con tacchi alti, riuscirono a opporsi a questa forza violenta della polizia. Vennero arrestate 13 persone e un numero imprecisato di manifestanti venne picchiato selvaggiamente dagli agenti, ma 2000 persone si batterono contro i poliziotti, scesero in strada dalle case. Fu una vera rivolta che iniziò il 27 giugno durante la notte e poi durò la notte seguente e ancora 5 giorni di distanza dalla retata. Mi vengono i brividi mentre leggo, perché mi fa impressione pensare questa rabbia scaturita da maltrattamenti fortissimi che furono subiti, che erano stati subiti dalla comunità LGBT da parte delle forze dell'ordine, che avrebbero dovuto difendere, perché le forze dell'ordine dovrebbero difendere i più deboli e non pestarli a morte. E quindi era esplosa questa rabbia, e da quell'anno le date della rivolta dello Stonewall sono proprio considerate il simbolico inizio del movimento omosessuale. Ancora oggi, come ricordava Porpora, la nostra ospite che ci ha omaggiato della sua presenza durante la trasmissione poco fa, il 28 giugno continua a essere ricordato con il Pride. I hope you're not guitar, it's your time to shine. Come on. Questo è un altro grande brano, forse di un film un po' debole, Stonewall, ma la colonna sonora no, non è debole manco un po'. Questi erano i Directory, Feel It In Your Bones, un funk molto potente. Mando subito un altro brano. E questo era il funk di Richard Marx con il brano Cracker Jack, che non si trova molto. No, non ci sono info su Marx. No, niente, si trovano giusto due brani su YouTube. Non c'è niente su questa colonna sonora Marx, mitica. No, con la X ma con KS. Sì, infatti. Bene, abbiamo ancora un po' di tempo, sì, per delle tracce. Due cose, una dichiarazione. Allora niente, no dai, non parliamo, mettiamo la musica che è fighissima. Sì. Come on, baby. Come on, sister. è sempre dalla colonna sonora di Stonewall. Questo è un brano del 66, Show Me What You Got. Frank Williams and the Rocketeers. Frank Williams è un trombettista. The Rocketeers si può dire che hanno accompagnato tantissimi musicisti degli anni 60. Dal funk siamo ripassati al rocchetto. Questo era Sandy Zighetti, sconosciuto veramente su internet, niente. Ma com'è possibile? Make Believe World. È perché è musica ricercata. È musica, dice musica che, ricercata. Appunto, perché musica ricercata dovrebbe essere una musica, insomma, che, di cui si può parlare, perché è proprio bella, no? Finita nel dimenticatoio. Siamo ai saluti, Ottavia. Siamo ai saluti, una bella puntata, bellissima musica, sono proprio contenta. Bravo David. Vi ricordo che le coordinate per sostenere la radio, che come sempre sapete che ne ha bisogno, visto che non vive di aria ma di chi ha a cuore che lei continui a trasmettere attraverso queste frequenze, che sono gli 87.9. Abbiamo festeggiato i 39 anni qualche giorno fa, quindi speriamo che ce ne siano altrettanti da festeggiare, e per continuare a festeggiarli è bene sottoscrivere al conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma. Potete sottoscrivere attraverso il sito della radio, in modo più comodo attraverso la modalità PayPal, cliccando nel sito, andando nel sito della radio www.ondarossa.info e cliccando su sostieni. Il nostro contatto mail è tracce di cinema@ondarossa.info, un miracolo che mi sono ricordata. Bene, io ringrazio tutti gli ascoltatori per la pazienza e spero che abbiate goduto come noi della bella musica e delle bellissime parole dei nostri ospiti. Ci sentiamo giovedì prossimo. E chiudo con Jay Ramsey, Cast the First Stone. See me smile. They judge me by their rules, and I don't even play their game. seeks and when he finds, judging by their narrow minds. If I never seem to solve the problems of this bitter earth, I'm searching for I do. Be my business.